Roma Trastevere, 12 ottobre 1966. Cara Eleuterio, la casa che ascoltò i miei lieti vagiti ora ascolta i miei accorati singhiozzi. Il nostro bisticcio di ieri mi ha lasciata attonita a chiedermi: ma perché? Proprio come mi ha sempre lasciata attonita e con lo stesso interrogativo ogni puntata di Laura Storm. Piove, Eleuterio. Guardo dalla finestra e non c'è niente di più triste di un cortile con i panni stesi in un giorno di pioggia. E penso che il cortile è una scatola di noia in conserva chiusa da un francobollo di cielo. E penso anche che sei irrimediabilmente stupido. Continui a litigare per un non nulla. Siamo arrivati a bisticciare anche per una mia rapida telefonata. Sempre tua. Roma Parioli, 13 ottobre 1966. Adorabile sempre mia. La casa che ascoltò i tuoi lieti vagiti e che ora ascolta i tuoi accorati singhiozzi, ascolterebbe, se io fossi lì, le molte censurabili cose che vorrei dirvi. Non ti sto dando del voi, pluralizzo, perché tua madre è sempre nei miei pensieri con te, lei un po' prima. Certo, sono uno stupido a provocare una lite solo per via di una rapida telefonata, ma ci sono cose, leggiadra sempre mia, che colpiscono e addolorano. E la tua rapida telefonata mi ha colpito proprio qui, sul sopracciglio destro, e mi ha addolorato, te lo giuro. Ciao. Ho scritto. La suocera è adorabile solo quando la si vede attraverso un cannocchiale. Se il cannocchiale è posto su un fucile a ripetizione, ancora meglio. Eleuterio. Roma Trastevere, 14 ottobre 1966. Caro Eleuterio, felino, mi limito alla categoria senza specificare perché non te lo meriti. Mia madre si è informata sulla entità del tuo bernoccolo sopraccigliare e appena le ho dato le misure, lei è fuggita, poverina. Poi è tornata con una bottiglia di champagne e ha voluto che brindassi con lei. Lo champagne. Penso che in fondo è solo vino in confezione spray. La rapida telefonata sul tuo sopracciglio destro è stata del tutto casuale. Mi è sfuggito il microfono mentre tentavo di togliermi una pantofola da tirarti. Sempre tua. Roma Parioli, 15 ottobre 1966. Cara sempre mia, ci risiamo. Incomincio a sentire la tua mancanza. Il fatto di leggere a letto fino a notte inoltrata senza disturbarti mi infastidisce. E mi infastidisce anche il non poter dialogare con te. Tanto che ieri ho chiamato il bambino della signora accanto come surrogato. Ma la faccenda non ha funzionato. Il bambino, per quanto piccolo, è intelligente e coerente. Torna. Anche perché qui succedono cose strane. In camera c'erano due finestre, ricordi? Ebbene, ora ce n'è una soltanto. Ho dimenticato perfino perché abbiamo litigato. Ciao. Ho scritto. Abbiamo ritrovato la finestra. Era dietro l'armadio che avevo spostato per vedere se tante volte sotto ci fossero le mie camicie stirate. Eleuterio. Roma Parioli, 15 ottobre 1966. Caro Eleuterio, micione, eccomi di nuovo qui. E quando scrivo qui, intendo dire che non sono più lì, cioè a casa di mia madre. Insomma, sono tornata. E quando tornerai anche tu, avrai la sorpresa di vedermi e anch'io di vedere te. E sera, Eleuterio, ci sono le stelle. E io penso che le stelle sono le felidi di un cielo che ha preso troppa luna. Quattro giorni fa a quest'ora stavamo bisticciando e ricordo perfettamente come andò la cosa. Ciao. Sei tu, Micione? No, sono mio fratello, Annibale. Caro Annibale. Londra. È andato bene il viaggio? Via, non sei Annibale. Con te, Eleuterio, non si può mai essere sicuri di niente. E con te invece sì. Si può essere matematicamente certi di beccarsi appena rientrati almeno una domanda astutamente cretina. Eh sì, perché ci vuole una certa astuzia a fare delle domande così sceme. Sei di malumore, caro. Ma no, sono tanto stufo di sentirmi chiedere da 15 anni sei tu quando rientro e esci quando sto uscendo. Novità? Non vorrei risponderti, ma ti rispondo per non farti dire che non ti ho risposto. Nessuna novità. Telefonate? Nessuna. Ah sì, mia madre. Cosa vuoi che me ne importi? Ci sta le giornate attaccata al telefono, quella. Mia madre non è quella. Magari, invece è proprio quella per me. Chi ha telefonato? Uno. Uno chi? Non lo so, non ha detto chi era. E che cosa ti ha detto? Ha detto solo, ciao tesoro, vengo a cena alla solita ora, poi ha messo giù. Ma ero io! Perché non l'hai detto? Vedi, cara, se quel giorno, a quella famosa festa, 40 anni fa, avessero offerto soltanto aranciate anziché spumante, tuo padre non si sarebbe ubriacato e non avrebbe chiesto a tua madre di sposarlo. E di conseguenza io non sarei qui a colloquiare con te su un piano surreale. Vuoi dire che sarebbe stato meglio che io non fossi nata? Vedo che di tanto in tanto hai dei bagliori di lucidità. Sei un cafone. Ha ragione mia madre. D'accordo. Chi altro ha telefonato per me? Una donna. Ha detto di a quel cretino di tuo marito. Non mi interessa, era tua madre. È vero. Me l'hai capito? Dai baffi. Sadico. E poi? E poi bruto. No, dicevo poi, chi altro ha telefonato? Nessuno. Deve essere mia madre. Allora rispondo io. No, rispondo io. No, no, è no, Pronto? È tua madre. L'ho riconosciuta dalle zanne. Dammi il microfono. No. Dammelo. Non lo devo dire una piccola cosa che mi serve da tanto tempo. Dammi il telefono, se no. Se no. Se no, io. No, io. Ai, ai. Mamma, mi brutalizza, vengo da te, ho paura. Ricordo perfettamente perché litigammo, ma quando rientrerai sarà come se non avessimo mai bisticciato. Ciao. Sei tu Eleuterio? No, non sono io. Sono mio cugino Giuseppe, che ritorno da Parigi.